Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di Cibus stasera, il Salone Internazionale dell'Alimentazione che si è tenuto a Parma nel corso della settimana e che ha visto diversi momenti, convegni, concorsi come quello di cui abbiamo parlato ieri, dedicati all'innovazione in campo agroindustriale. Ed è proprio di alcune tecniche innovative che si stanno diffondendo in questo settore che vogliamo parlarvi stasera con l'aiuto di Massimo Iannetta, direttore dell'Unità Tecnica di Sviluppo Sostenibile e innovazione nel sistema agroindustriale dell'ENEA, la nostra agenzia per l'ambiente e l'energia, nonché responsabile del Centro Servizi Avanzati per l'Agroindustria. Buonasera Iannetta. Buonasera a lei e a tutti gli radioascoltatori. Allora, io l'ho presa al volo in una stazione del treno, quindi ci terremo sotto questi annunci. Allora, intanto ci dica un po' appunto delle attività dell'ENEA a sostegno dell'industria agroalimentare italiana. Sì, noi come ENEA abbiamo proprio il mandato di favorire la competitività del sistema produttivo italiano. Uno dei settori manifatturieri più importanti per la nostra economia è sicuramente l'agroalimentare, poi il Made in Italy sappiamo che è riconosciuto a livello internazionale come una delle valenze in assoluto di prestigio del nostro paese. E allora noi da anni insieme a Federalimentare stiamo seguendo tutto un percorso legato alla ricerca, all'innovazione, al trasferimento quindi della conoscenza che sviluppiamo all'interno dei nostri laboratori per far sì che arrivi al mercato e quindi alle imprese. Questa è un'operazione estremamente complessa, ma attraverso la piattaforma tecnologica Food for Life, il cluster nazionale sull'agri-food, ci siamo sintonizzati con le imprese e abbiamo poi alla fine deciso di costituire questo centro servizi avanzati per l'agroindustria che ha proprio come obiettivo quello di svolgere una funzione di intermediazione tra la domanda di innovazione delle imprese e l'offerta da parte non soltanto dell'ENEA, ma ovviamente avendo un certo. inclusivo con tutte le istituzioni e gli organismi di ricerca che sono all'interno di questo network. Ecco, e appunto allora facciamo qualche esempio delle nuove tecnologie che stanno entrando, si stanno diffondendo maggiormente nel settore agroindustriale, che come abbiamo detto ieri è un settore che vive di tradizione ma anche di innovazione appunto, no? Il primo esempio riguarda le tecnologie a membrana. Noi abbiamo brevettato una serie di sistemi di filtrazione, che sono filtrazione, ultrafiltrazione, osmosi inversa, in grado di filtrare le matrici alimentari che sono il siero del latte, le acque di vegetazione dei frantoi oleari, sono anche le vinacce del processo di produzione del vino. Ecco, per esempio, nel caso del latte, invece di pastorizzare il latte può essere ultrafiltrato, che vuol dire si fa passare attraverso questa membrana che trattiene tutta la carica batterica, no? Un po' questo è il principio. In questo caso si parla di un'altra applicazione, no? Però sempre di filtrazione. Che cosa fate, appunto? Noi stiamo lavorando con un'importante industria nel settore lattiero-caseario per realizzare due nuovi prodotti attraverso questa innovazione di processo che è quella che dicevo delle tecnologie a membrana, e cioè un latte delattosato, quindi senza lattosio per gli intolleranti al lattosio, e un latte senza beta-lattoglobuline per gli allergici, soprattutto per i bambini. Ecco, noi cerchiamo di estrarre attraverso questo sistema di filtrazione le molecole non gradite, poi le riutilizziamo ovviamente all'interno di nuovi prodotti e in più tutto il residuo viene utilizzato per la produzione di biogas o per la produzione di calore, quindi per efficientare il sistema da un punto di vista energetico. Un altro esempio invece ha a che fare col microonde, se ho ben capito, no? È un'evoluzione del microonde, lo shockwave, che in qualche modo serve a sterilizzare, ovviamente ottimizzando anche in termini energetici il processo, alcune matrici alimentari, e questo anche per allungare la shelf life del prodotto, cioè la durata sullo scaffale. Ecco, shockwave, che cosa vuol dire? Cosa sono queste onde scioccanti? Sì, sono onde elettromagnetiche che ovviamente vengono utilizzate con gli giusti dosaggi per favorire il processo di sterilizzazione. Insomma, se ho capito bene, invece di avere un microonde che emette appunto microonde in modo più o meno continuo a una certa potenza, voi gli date all'alimento in questione degli impulsi molto brevi ma molto molto potenti, e questo sterilizza in modo più efficiente dei metodi tradizionali il cibo. È così. Grazie Massimo Iannetta. Grazie a voi. È tutto, a lunedì.